che portavano un sacco di malattie, portavano quelli li hanno messi bene bene dentro le città, li hanno bene sparsi, li hanno, non ci ricordiamo queste cose, gente che è fuggita con malattie, con cose, cioè, ma no, non ci lamentiamo di che c'è goce qua, dove va a essere la regola, qua non entra nessuno dal governo, dove esserci la regola, qua, basta, finito, porti bloccate, cosa, e se devi entrare, deve avere tutte le cose sanitarie a posto, perché sennò qua non ci deve entrare, siccome ci sono mangiati bene bene i soldi in altre cose, cioè deve per forza apparire che c'è il Covid, gente che non aveva Covid e vi hanno fatto passare una tesi, deve apparire quello perché c'è un business, ecco qua, ecco, bunda, cioè queste cose si potevano evitare, si potevano, non ne ha futti nulla, non ne frega niente a quella gente lì, punto e basta. Sì, sì, e beh, per cosa credi? Perché dice non potevi fare autopsie? Dice per la sicurezza, per evitare contagi, lì è per non vedere che, vabbè, hanno esagerato a dismisura il conteggio dei morti da Covid, bastava che fossi positivo e morivi per cavoli tuoi, morte da Covid. Però non puoi provarlo perché le salme non... ti ricordi che le facevano sparire, se le portavano via i camion militari, non vedevi mai più la persona cara che era morta, e dietro si lasciava perdere, forse è meglio non saperlo, però... capito, se crepavi di roba tua morivi di Covid, adesso che quando crepi dal vaccino, il vaccino non è mai, non c'è una correlazione, quello lo stanno dicendo in tutte le lingue 100 volte al giorno, non c'è correlazione. Capa, io quel vaccino non lo voglio manco vedere sulla mia persona, ti non puoi lavorare, vai girami il guglione, però non devo morire, scusando dalla frase, non devo morire io, cioè, perché io devo fare questo vaccino, devo rischiare di morire, ammosso di vecchia una peppa tutta la vita puro, cioè pezzi di idiota a quella gente, dice che qualcuno lo sanno anche, dicendoli così, se non puoi andare a lavorare, ma che te la puoi pigliare in luci, però io non devo morire, non devo rischiare di morire, no. Soprattutto per i dipendenti statali, ma anche i dipendenti di aziende. Non so se la vostra sia familiare l'impresa, tu, però può darsi che tu nemmeno sia obbligato. Però ai dipendenti, a gente, insomma, gli hanno detto chiaramente che il vaccino sì, non è obbligatorio, però se non lo fai avrà delle conseguenze sul lavoro. Se, come dire che ti licenziano se non lo fai, capito? D'altronde arginare se questo Covid, vabbè, altri, visto la gente se ne frega, l'ultima cosa per tentare di arginare questa cosa è il vaccino, solo che anch'io temo più del virus, e poi non ci credo io di non essere venuto a contatto col virus, lo sai, non vi credo, sicuramente in un anno ho toccato i soldi, poi ho il vizio di mettermi le mani negli occhi, nel naso e alle orecchie, sicuramente sono venuto in contatto e sono magari asintomatico o comunque a me non mi faceva niente. Non ce l'hai manco mai avuto. Avanti qua. Sì, non è detto, Marco, non è detto assolutamente, perché è così, la realtà è quella, capito? Non è che ci siano tanti problemi. Però, ripeto, quello che sta dicendo Antonio non sono balle, perché c'è un business allucinante su questo Covid, su questa pandemia totale, ma non solo in Italia, da tutte le parti. E quindi qualcosa non sta funzionando, cioè non è possibile che in una settimana sia salito così l'incremento dei contagi pur essendo in zona bianca, cioè qualcosa non ha funzionato, da parte di chi non si sa, ma come dice Antonio, anche secondo me c'è da parte del governo un business, qualcosa di guadagno, qualcosa di speculazione, qualcosa che di balle, di solo balle, perché è impossibile una cosa del genere, anche perché hanno fatto non so quanti vaccini in Sardegna, quindi questo vaccino è una cosa che non serve a niente, oppure è totalmente c'è qualcosa che non ha funzionato, anche secondo me. Pochi vaccini, cioè stanno vaccinando, credo, di, come ha detto Giulio, over 80, cioè quelli abbastanza anziani, più i lavoratori, soprattutto ospedali, aziende pubbliche, quelle cose lì. Ma non basta, comunque sicuramente i dati, non sicuramente, è una mia ipotesi, sono gonfiati ad arte. Poi voglio vedere i cinesi, vedrete che ci saranno imprese cinesi che rileveranno vedi attività che sono andate in fallimento. È come se stessero vendendo l'Italia ai cinesi praticamente. Oh, sono uscito, sì. Sì, sì, aspettava Antonio, vai Antonio. Ehi capo, sono guardato un attimino io so. Ho capito, vedrai come si offriranno i cinesi che arrivano sempre con le borse piene di soldi, non si capisce se siano soldi della mafia cinese, verranno a rilevare un bel di attività fallite italiane, capito? Scompreranno mezza Italia, già mezza ce l'hanno, si comprano l'altra metà i cinesi. Ma la devi finire con che ci gazzate però, perché no, non si può vivere con questo incubo, non si può vivere con queste cose qua, assolutamente. Poi i cinesi sono mali, mi sembrano bravi, comprare, sono dei figli del paese loro, ne fanno tutti i colori, capito? È come un regime, dicono. Io non ci sono stato, non lo posso dire, però anche lì devi fare tutto quello che dice il governo, se no sei un cattivo cittadino, capito? Vedrai che introdurranno il sistema appunti anche in Italia, lo sai cos'è? Già lo so già. Il cinese innanzitutto è così, il cinese non devi andare a rompere le scatole agli altri, prima di tutto, e devi lavorare e fare l'uomo, la persona seria, se no ti vado in pari, è quella la regola. Sì, insomma, il sistema appunti è che praticamente più sei un cittadino modello, più sei abilitato a fare tutto. Praticamente se per esempio non fai vaccinare i tuoi figli, non ti vaccini tu, allora cominciano a decurtare punti, tipo la patente, e comincerai che, no? Come l'esempio di prima, non potrai viaggiare, non potrai, che ne so, acquistarti una casa, tante cose, e lo faranno anche qua. Anche un telefilm avevano fatto, futuristico ma non troppo, su quella roba lì, cioè se fai tutto quello che dice il governo, e allora sei un cittadino modello, se non lo fai, cominceranno a limitare certe tue cose, cominceranno a non poter fare più quello, più quell'altro, e ne vedremo chi rimarrà, forse è meglio non vederne, mi dirò. Forse è meglio buona porto le cose, no, no, Iulia. Ne vedremo delle belle, Antu. Secondo me ne vedremo delle belle, va. Secondo me ne vedremo delle belle, perché a me sembra una mezza stronzata sta cosa, comunque. Adesso la cosa brutta è che da noi siamo veramente rinchiusi in casa, per carità di Dio. Ascolta Antu, segnale com'è buono, che ho dato un po' più di potenza, va. Voglio che vada come andava prima sta radio, era troppo bassa di potenza. No, 9.40 e radio 5. 9.40 con picchi positivi oppure fermo? Com'è? Con picchi positivi, ma allora sei di cosa ti posso dire? 9.39 con a picchi 9.40, una cosa del genere. Vabbè, già è precisa anche quella, dai. Va bene, tu sei 9.30 pieno. Anche Marco, ti sei avvicinato al segnale di Marco, poi quando attacca è 40, infatti io quando attacca non accolgo. KK, va bene, è inutile che intanto possiamo stare sino a domani a parlare della stessa cosa, no? Non c'è niente da fare. È veramente un grande casino. Poi non neanche da zona bianca a zona gialla, no, direttamente zona arancione, quindi non capisco cosa cazzo sia successo. Ma sulla nuova c'è la notizia, perché c'ho il telefono in carica. Sì, ha letto il telegiornale poco fa, ha letto il videolino poco fa, confermato, da lunedì in zona arancione a Sardegna, perché è salito il tasso di contagio. Capo, è così. Cosa si può fare? Io mamma mia. E qua, allora che l'ho, io l'ho abbassata un po', io l'ho abbassata. Non li sto dando tutto, eh. No, io ce l'avevo, da quando l'ho ritirata mi ha detto il tecnico di usarla per qualche giorno a bassa potenza, quindi l'avevo messa 8 watt, 10 watt, così. Capito? E c'erano picchi di 20. Però io di solito tutte le radio che io ho usato di questo tipo le ho messe sempre a 20 watt di portante e 35-40 modulati. E così sta andando questo adesso, 20 watt e quasi 40 modulati, perché più di 40 non va. L'ho fatto apparare a 40 watt in AM, così dura di più, tanto non serve a niente avere tutta questa potenza, va benissimo così. Avanti Marcoli. Capa, provo a fare una prova qua. Guarda lo smith un attimino. Hola, hola, com'è? Ora bacia, bacia. A 35 picchi di 38-40 quasi. Capa, no, non va bene così. Hola. Così va bene, va. No, si no, aumento il gruppo, se regoliamo questo pure, la massa che tiene varia, ecco. Ecco qua, così va bene. Allora, ora. No, lasciala stare 10 watt, tanto va benissimo. 10, 15 li puoi dare di portante, ma anche 20 di portante, ma non salire di più. Sfrutti solo lo stadio finale e basta, mi hanno spiegato questo tecnico, io l'ho sempre fissato a tenere a 30, 40 watt di portante bianca, 60, 70 modulati, no. Ho detto va a fare una cosa, regola la tu al strumento, non farla andare in AM più di 40 watt, così ha fatto. Ma messa a tarata 40 watt in AM e basta. E così l'ho lasciata. Potrei anche aprirla e aumentarla, perché so come si fa, ma non la tocco perché è fatta a strumenti, capito? È fatta al banco e quindi la radio dura di più, anche perché è stata tutta revisionata, ho speso un sacco di soldi. KK, caro Marco, è così, purtroppo sarà lì. E tu come stai? Meglio? Ho saputo che non stavi molto bene ultimamente, come va? Così, sono lamentoso io, sono molto lamentoso, però non so, il cuore come stanco, poi un po', non basta che prenda freddo, mi si abbassa la voce, è un po' più rauca. Mi ho aperto la internet, sì, Sardegna, Piazza Arancione, da lunedì 22 marzo, Ministro Speranza, bella inchiappettazza, no, non me l'aspettavo la verità, non me l'aspettavo. E poi non si è sentito niente gli altri giorni, di botto zona Arancione, vabbè. Sì, così, comunque per la salute vado e vengo, ci sono giorni disastrosi che non mi alzo a letto, è come un malessere generale me. E ripeto, il cuore è come se fosse stanco, mi ha faticato. Ma questa è roba anche di lunga data che diciamo sta peggiorando con l'età. Poi io non facendo alcun esercizio fisico, e sto camminando anche quando esco in macchina, io a piedi non sto camminando nulla, Claudio, ma è una cosa molto grave, molto grave, per mandronia e perché non sono abituato anche. Però non va bene, il medico mi ha zantarazzo, mi ha detto che mi fa, se mi do una voce mi fa il coso a strisce, il lungo SO. Ma devi camminare, Marco, devi camminare perché camminare fa bene. Io la mattina esco un'oretta, mi faccio una passeggiatina col cane, oppure esco anche prima a prendermi il caffè, faccio un paio di chilometri a piedi, due andare e due a tornare, però bisogna camminare. Vabbè, in questo periodo sono molto in movimento, infatti sono un po' stanco, mi sta tornando il mal di schiena, però fa bene Marco, fa bene, non ti accasciare, non stare rinchiuso a casa perché sennò è un casino. Potete approfittarne questo periodo, sai, senza fare tante cose, però almeno una passeggiatina, un'uscita, a piedi però, a piedi, non in macchina, perché siamo molto, molto pigri. Anch'io sono di quelli, per ogni cosa, prendo la macchina, prendo il motorino, è un casino, bisogna camminare a piedi, altrimenti non ci fa, non ne abbiamo nessun riscontro qui, soprattutto alla nostra età, capito? Ormai siamo già grandi, non siamo più ragazzini, quindi è un casino. Vai, Zianto. Capa, io sono al contrario invece, io sempre a piedi. Molte volte per andare da qua al lavoro me l'ho fatto a piedi tante volte, e non è vicino, no. A me mi piace proprio perché mi aiuta a pensare, a fare, cioè, mi piace camminare così, a piedi. Ehi, già ti vedo, te cammini molto a piedi, ma qui c'è anche un lavoro molto movimentato, capito, no? Le tue 8 ore ti sposti, fai, corri, sali, scendi, è vero, tu ce lo so il lavoro che fai, quindi, ma per me, io quando non lavoro più, sono molto più sedentario, molto più a casa, sì, qualche cosettina la faccio, però in questo periodo sono un po' più in movimento, ma i periodi scorsi ero molto sedentario a casa, sempre bussato, capito? Adesso invece la mattina ce l'ho sempre più impegnata, il primo pomeriggio, mi sono seduto poco fa, ho fatto due chiacchiere con Marco e con Giulio, poi sono uscito a portare il cane, sono rientrato, sono di nuovo qua, anzi, adesso vi lascio perché sono già le 9:20, vado a dare una mano a mia moglie. Se ci siete magari ci sentiamo dopo, ok? Per il momento vi saluto, già lascio acceso qua, vi ascolto volentieri. Vai Marcolino. Un po' mi si sta abbassando la voce piano piano. Ti volevo chiedere, visto che tu sei più dalla regione alta, ma il bar di Rosi a Piazza dei Segni, che fine ha fatto? Ho visto come è transennato, come si fosse messo in sicurezza, ma hanno chiuso, era pericolante, su cosa c'era? No, assolutamente Marco, ha venduto Rosi, ha venduto già prima di Natale, subito dopo Natale, prima di Natale, è rimasto chiuso per un po', adesso è transennato perché praticamente quella veranda va smantellata per non far entrare nessuno, capito? L'hanno aperta la veranda, ha visto, prima era chiusa, è tutto vuoto dentro, hanno smantellato tutto, devono fare un altro bar nuovo, gigantesco, ha venduto, no, non è successo assolutamente niente, ma era ora, io gliel'avevo sempre detto, molto signor Enrico, lui non si poteva permettere con la mamma di stare lì ore, tutto il santo giorno, anche perché la madre è una persona grande, capito, Rosi non è che di salute stava molto bene, ha fatto bene a vendere, hanno venduto, basta, sono ritirati, adesso faranno un bar nuovo, però sicuramente chi ha comprato non è uno sprovveduto, sicuramente avrà quattrini, perché investire in questo periodo non è che è una cosa bella, capito, quindi sicuramente sta aspettando per fare l'attività nuova, tutto qua. Purtroppo periodo brutto, anche strano che abbiano venduto in questo periodo, a meno che poi non ci facciano altre attività di altro tipo, che ne so io. Va bene, e quindi forse sta lavorando di più anche quello che aveva il bar Firenze in via Gorizia, come si chiama? Cognome non mi viene, che vabbè, c'è il bar a fianco AMD e poi c'è quell'altro bar che una volta credo fosse di Fois, poi anche allora avevano venduto, quello con la copertura tipo pagliericcio, mi pare l'avessero venduto anche quello. No, ma quello non era di Fois, quella struttura è del comune, perché lì c'era la biglietteria della Torres, quindi c'era stata una gara d'appalto dove il comune necessitava appunto un punto di ristoro e come sempre è stato preso da loro, è morto il titolare che è Cenzo, capito, perché il titolare era Cenzo Fuis, Vincenzo Fuis, morto Cenzo ed è caduto il contratto di affitto, di gestione, e quindi è stato preso da questi ragazzi che ci sono, l'hanno tutto rifatto a nuovo perché era un mare di bingu, tutto rifatto a nuovo, ti posso garantire che stanno lavorando tantissimo, capito? Tutto qua. Dai, io vi lascio e vado a preparare in cucina, dare una mano a mia moglie. Ci sentiamo dopo, tanto se ci siete, beh, ne prendo. Ehi Cabba, ciao cara, ci sentiamo, ciao. Avanti io, ma Marco. Cabba, ciao Claudio, dai, ci sentiamo, io non tarderò, ogni tanto mi si accavallano le corde vocali, Antu. Non tarderò a chiudere, oggi poca gente è entrata, a me piace più ascoltare, non lo sentiamo ancora Roberto, nulla. Aggiornate. Vabbè, giustamente loro lavorano, anche tu, e quindi bisogna avere il tempo anche per la famiglia, eccetera, giustamente. Ehi. Va bene, era gestito, no, credo fosse roba loro, comunque, ci ho spiegato meglio. E quindi adesso mi bevo un bicchiere d'acqua, poi vista l'ora, tanto gira gira, chiudiamo, io tanto di notte non mi trattengo, non ce la faccio più, dai, mi dedico alla TV. Ripeni Antonio. Capo, poco ci abbattone ci dimentendi, eh. Ma mai come questo periodo. Sì, sto uscendo, più che altro per fare la spesa, così mi si detto, però io francamente, tanto dopo quasi 50 anni, io mi sono rotto le balle di farmi girare a Plaza Mona, Plotore, cioè. Più di chi lì dove vuoi andare? Alghero, vabbè. Più lontana, più tutto. Cioè non sei diversive qua, capito? Siamo un po' dipende dai gusti. A me non è che piace tanto la discoteca, una volta andavo ai concerti rock, ma ormai non c'ho più l'età nemmeno. È tutto giovane adesso, cosa so da fare. Poi non ne stanno facendo più come una volta. Poi allora non è nulla. Secondo me la stai pensando un po' male, la stai pensando. Io non condivido quello che stai dicendo, perché ti si va a sentire troppo andare e non è così. La vita è fatta anche dopo 50 anni. Vabbè, però... vabbè, meglio, più giovane si è meglio è. Avrei venduto l'anima al diavolo per ritornare bambino. E non si può fare. Buonasera anche a lei. Capa, Emi parlando stiamo discutendo, stiamo. Capa, no Marco, no, non è così, no. Anzi, dovresti essere più attivo, dovresti essere. Capa. Chi sei Eugenio, sì, vero? Ma aspetta che mi regolo lo squelcia zero e poi devo segnale a 7, non sentivo la modulazione. Chi era amico che è entrato avanti? Eugenio. Sì, adesso ti copio. No, non capivo perché vedevo segnale 7 e non sentivo radio. Lo squelcio mi chiudeva tutto. Aspetta che con un aiutino. Così mi senti almeno. Ciao Eugenio, Santiago 7, sì, e la radio è buona. Troppo è un kilowatt, saranno meno di 50 watt, infatti è strano il controllo, dovrebbe essere da 6 a 8, da 6 a 9 a 5 un po', lo Smith magari non è preciso. Ebbene, cosa mi racconti oggi? Buonasera, capami, stiamo parlando che secondo Marco dice io sono troppo vecchio per andare a fare una, cioè per esempio per andare in discoteca, sono troppo vecchio per andare qua, io non la penso così, io la penso diversamente, la penso. Ci sono anche quelli della loro età che vanno a ballare, cioè magari non è che ballano, vanno quei ragazzini, però ci sono anche quelli che per esempio vanno a ballare la salsa, la bachata, tutte queste cose, cioè non gli piace vivere, gli piace tutte queste cose qua. Io non mi fermerò mai, andrò sempre per la mia strada. Anche se avrò 50 anni. Cappa, sai quanto ci ho frequentato in discoteca? Sai quanti? Dell'età di Marco, dell'età pure di Claudio c'erano. Eppure si buoniano in chivi, il ratatumba lì, e si divertivano lo stesso. La vita va sempre avanti, va sempre e via. Tanto magari non ho detto vecchio, ma no, sai cos'è, in discoteca, lo dicevo all'epoca quando avevo 20 anni, c'è troppo rumore, cioè veramente ti sfonda i timpani, troppo gaglio, troppo tutto. Io l'ultima volta che sono stato in discoteca era il 2005, 2004, 2003, non me lo ricordo. E ti dirò che solito ho detto troppo caldo, troppo rumore, non sono più abituato alla ressa, capito, al casino, al rumore e tutto quanto. Ah, io mi cerco in mezzo, me la fottio da, vai, cicchi ciac! Chi c'è, Eugenio? Guarda il segnale, sei salito adesso, se come sempre, che ho dato un po' più di potenza alla radio. Eugenio, ok, prima quant'era? 7, 8? Ok, questa è la potenza sua che uso sempre. Vai. Sono in cucina, vi ascolto volentieri, sentiamo dopo, vai. 49. No, sono del 49. Ma vai! Sto scherzando, dice. No, 49 anni. Sì, non troppo rumoroso, mi prende la testa, sono rotto di. Anche per la musica, io non ascolto mai con un volume troppo alto. Cioè, deve essere anche piacevole la sentire la musica, vero Antonio? Tu già, siccome andiamo qui con quelle casse ne fai scendere il topo dalla trave. Io sono abituato così, o la metti o non la metti. Aspetta che mi arriva. Tra qualche mese mi arriva il mostro, mi arriva. Boia! Qualche amplificatore audio? Ah, cosa? Sto pensando di prendere. C'è tipo mini line race o no? Te lo faccio vedere che cosa è. Capito? Ah boh, già il nome non mi dice niente. Ehi, aspetta. Mi sto stancando un po' la voce, Antonio. Dai, stacco a breve, altri due passaggi. E poi dai, e poi sentiamo. Ehi, quindi OG me li dà modulati me li dà. Buona sapersi, va, ti faccio il fruscio. Non mi viene. Sì, se no sono 3 watt, guarda, così forse 50 o meno. Vaffanculo, non trovo l'interruttore. E così saranno 3 e mezzo, ma presumo 3. Qui apri la foto, Marco, e non vedi cosa voglio prendere. Eia, ma adesso l'apro. Oggi tu come apparecchio cosa stai utilizzando, si può dire? Questo è un President, baracchino volgare, proprio di sì, tutto tipo cellulare dentro. Eia, vabbè, una domanda ovvia, il trimmer della M è chiuso, aperto, non si sa, perché se non fa da limitatore, capito, più di tanto non fa, ti livella la radio, la modulazione. Tanto vedo questa roba, e vedo anche il prezzo. Questa roba da discoteca però, ma così. Cosa devo comprare? Devo comprare un giocattolo là. No, mi serve perché sicuramente io ho intenzione di intraprendere quella strada, di fare matrimoni, cerimonie, tutte queste cose qua, capito? E quanto lo stai vendendo? Beh, che non sia troppo grande, capo, perché invece ho un mixer che non sia tanto grande. C'è un gatto me lo bongo in capo. Capa, no, io sto prendendo quelle, cioè, adesso più là vedo, piano piano, fa cosa vivono i Burudinà. Ce l'hai presente tipo l'FBT Virtus? Quelli lì sto pagando io. Capo, allora, quelle che ho io adesso sono le alto. Sono. Quelle fatte però in legno di betulla sono fatte. Bugu Bisani. Le alto sono amplificate, sono, capito? Queste sono ben pesanti, sono, però stavo dicendo di prendermi tipo quello, o se no le altre professional, quelle da 2002, con quelle già non sbagli. Bianco un attimo. Ehi, Antonio, ho fatto bianco un attimo, oggi, bene, sì, mi sta stancando la voce, e quindi appena rientra Antonio stacco, sì, segnale è 7, ogni tanto oscilla appena, questa LED però è grosso modo 7, anzi potrei affermare che è 7, e ascolta, come si chiamava? L'Uranus, ce l'hai sempre. Ecco qua, sono arrivato, sono rientrato, comunque io ce l'ho, le alto, ci ho messo, gli mando la foto a faccio vedere. L'alto passava al 3.900, uno di riserva al limite, ma in effetti a fare collezioni di baracchini non serve a niente. Qua, come ricevuto, magari se c'è qualcuno che ne ha bisogno, glielo si dà, glielo si vende, glielo si regala. Io vendere certe volte ho preferito regalargli gli apparecchi. Eccomi qua. E io vengo. Ti ho mandato una foto di quella che ho io adesso. Quanto ne vuoi per quel mixer? di mandarmi la foto per come è, capito, mandami l'amicizia su Facebook. Ogni cassa. Ma disattivi c'hai? Hai pure i disattivi delle casse tu. Disattivi non riconosci. Le casse come le metti sopra? Un gruppo va detto, miro già memo, il sassareso. Capa, no, io ho anche i disattivi, c'ho tutto. L'attacco così. Adesso vediamo, va. Qualcuno c'hai su Facebook da me, allora mi mandi le foto. Componio ce l'hai, chi c'hai di Sassari? Ah, capa, se no ti avrei contattato. Davvero non c'hai Facebook? Cosa hai detto Marco? Che c'ha un camper, lui non si vede di faccia, ma c'ha un camper e la neve dietro. Se cerchi Eugenio, giusto? In zona Porto Torre si dice c'è solo lui, con quel nome. Ehi, ma tu lo copi, come ti arriva Eugenio di segnale o di comprensibilità? Sei. Ma il QRM, io non ho capito qua com'è la situazione. Allora, quando accendo presto presto non c'è QRM. Poi verso le 6, 6 e mezza, 7 il QRM non ne parliamo, sale un bel. Adesso è di nuovo basso. Oh. Ma non saranno invece quel cavolo di lampioni della strada che hanno quelle lampade terribili che come si accendono buttano un mare di disturbi. Anche altri se ne sono lamentati. E cosa vai? Chissà cosa con lo scheletro vai? Ma foto con lo scheletro? Con la P e il cognome, è vero? Cognome della mia ragazza, cioè. Vai, che te l'ho mandata. Cappa, belle quelle casse, no? Marco, belle quelle casse, no? Sì, io non mi intendo di marche, io conoscevo Technics, Bose, quella, infatti quella marca alto non... Ma e tu sei in condominio, come fai per la musica alta e la convivenza? Non ti dicono niente. A chi, quando si muove da un lula con questa musica, io niente le dico. Ma chi, ai faccinetti? Poi quelli sono nigeriani, quelli sono cattivi, bisogna stare attenti lì. Faccio lì dietro, mi metto, cosa, adesso tranquilli, no, roba al scatto da nessuno. Perciò io non ho messo mai roba potente in casa, no. Qua è un condominio, poi non fa, dai. Scappa, ritrovati ringosi, mandami che... Cioè vabbè, lo stereo pompa quanto... Cioè, alla fine poi dà più fastidio a me Mila quando è troppo alto il volume. Dipende che musica è, certo. Io ho un po' di tutti i tipi in ascolto di musica mia tu. Non mi limito a un solo genere, io posso ascoltare tutto, dalla musica classica al death metal. Certo, io monto discoteca, reggaeton pure. Tu non la conosci quella musica? Hai detto? Reggaeton. Più o meno, reggae, sì. Un po' tutto apprezzo, un po' meno la roba italiana. Almeno era bello Battisti, quella roba di una volta, ma adesso visto questi Bugo, quell'altro, con quell'altro scempiato, tutto pitturato in faccia, come si chiama? Quella è roba. Vabbè, no, a me non piace adesso, sono gusti, eh. Cos'era? Che sai c'è musica seria? Vai, baila, baila! La musica seria sì. Pregatene quando la sparo bene. Qua a Capodanno si stavano tremando anche i muri. Mi è giunto un ghiaccio di vicino, Giorgio, dice... Cucina qua, bomba, dice che trema per il piatto. fatti, non so. Ciao, ciao. La mazza che non è qua, ma ha regalato ancora i bici. Ma gli ho cantato 4 al telefono, non è successo. Cappa. Ciao Eugenio, dai, buona cena, buon tutto. Adesso anche io stacco che mi si stanno accavallando le corde vocali davvero. Allora, ho dato un'occhiata al tipo di artisti, praticamente è un misto tra reggae, come dire, rap, cioè, ho visto i nomi anche, Archangel, Bad Bunny, Daddy Yankee, Della Ghetto, i nomi sono tutto un programma, un misto tra musica latina, reggae, rap, di tutto, beh. Magari li ho sentiti, però non c'ho un artista preferito. Se no hai seguito certe cose, o Marco, no? Non so, devi abituarti. Sì, sai cosa sento? Questa è tutta roba giovanile, cioè per persone anche più giovani, cioè è orecchiabile sicuramente. Dopo mi guardo qualche video. No, io sono rimasto a Eminem, quella roba lì, per quanto riguarda il rap, adesso non ti so fare nemmeno degli esempi, quel settore lì, Bob Marley per il reggae, quella roba lì, va sempre roba vecchia però, non sono molto aggiornato, capito? Bene, Anto, io stacco del tutto, avrei dovuto staccare prima, vabbè non fa niente, dai. Ci sentiamo le prossime. Io più che altro ascolto perché mi si stanca molto, mi si stanca molto la voce, capito? Mi viene afona dopo. E soprattutto quando prendo freddo, quando prendo umidità. E poco fa è riuscito a metà serata un attimino a fare una commissione, senza giacca ovviamente, perché un po' farò dopo, e sentivo un bel di umidità, un bel di umidità, infatti mi ha beccato anche oggi. Ok, quindi saluti in casa, buona serata, buon tutto, buona cena, ce la devi fare, e sentiamo le prossime. E anche agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao anche a te. E dopo mi guardo qualche video più tardi, dai. Ma lo guardo con la TV tramite cosa? Android TV, come si chiama? Android TV Box. Ok, ciao, ciao a tutti. QRP esecutivo, ciao. E io a capo, dai, ci sentiamo Marco, dai. Poi non mi butta la pizza, bro. Dici che è successo un problema, no? Vabbè, là. Ti scusiamo. Antonio, dimmi. È rimasto acceso naturalmente, dicevo, ma stavo ascoltando qualcosa, ma sono tutti tipo messicani, portoricani, buona redere tipo e poi mi. Poi ci ho visto in mezzo anche collaborazioni con Shakira, oppure collaborazioni con altre cantanti, capito, collaborazioni di vari generi, eccetera. Certo. Ah, come intendi, buffetto, ah, io che non vive più, cioè più di mezz'ora senza portarmi la pizza, non esiste. Deve essere, sai cos'è, venerdì, fine settimana avranno avuto molte comande, molte richieste a tu. No, bisogna essere seri nel lavoro, non si lavora così, non mi è mai successo una cosa del genere. Non me lo sono aspettato soprattutto da loro. Cioè, non vorrei dovrà telefonare se mi sto finendo il baruguro. Perché sennò qua la pizza manco ci arriva di loro. Sto chiamando un'altra persona. Vabbè, tu avvertili però. Cioè, o si sbrigano. Però, appunto, giustamente, per correttezza li avverti. E Anton, io qua l'ho lasciato acceso. Lo lascio fino a notte tarda. Io quando vado a dormire lo spengo anche alle 4. Il tuo volume è bassissimo. Ho sentito a un certo punto rumore. Ho detto, che è sta roba? Ho sentito con rumore indistinto, non è vera la musica tua. Capo, hai scelto la telefonata. Ja, ciao Anto, ciao, di nuovo, buonanotte, ciao. Aspetta un attimo, su come mezzo incazzato, va. Spacca tutto. Dici che sono arrivendi. Cosa hanno detto? Che sta arrivando. All'anima, vabbè, dai, sicuramente avranno voluto un po' di richieste. Eia, cosa ti stavo dicendo? Niente, vabbè, sì, se qua io lo spengo a notte fonda l'apparecchio. Il volume però è bassissimo, al limite dell'udibilità. Giusto per capire se qualcuno entra, qui se vorrà appena ascoltare, appunto, perché avevo iniziato già il film. Ok, a guardare il film. Ciao Anto, di nuovo, buonanotte. Con tutto ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, dai, ci sentiamo. Ai, Antonio. E chi è? Topozzi. Ai. Facci spillo il telefono. E allora? E allora? Che mi dici? Dove sta? Che affari no, che sono Bruni. Devo essere una nevidina che mi ha appena regato la pizza. Ma sono mangiata, adesso siamo qua. E via. E da noi diciamo di nuovo arancioni? Lugabbo dice forse arancione a Eddie. Lugabbo, anche la canna. Poi appunto non c'è volgare me. Sacca sacca. Motore che darà da bianchi c'è andata a gialli, no, ha ragione il colpo, la pasta di Levaria. È una piata in giro, sono quindi ridicoli, sono ridicoli qua, veramente gente così ridicola. Io non ho mai visto gente così ridicola qua, per carità. Aspetta che adesso per Pasqua è tutto rosso. Cioè, ma manco, no, speriamo di no, cazzo, dai. Cioè, ma manco, cioè, non ci vogliamo far stare tranquilli, cioè, per il pigno di bauguro proprio. Cioè, la Pasqua non me ne è andata a fare la carrozzettina così. Ecco, se la pigia a luci. Che cazzo è? Che capo, Antonello, beh. Oh, il capo. Oh, io, per carità. No, veramente, so che allibito di certe cose, cioè, veramente, non ho parole qua, non ho veramente parole. Aspetta, con che metto vado in bagno? Sì, capo, dai. Allora vai. Voglia che baciami. E allora? Ehi capo, noi. Uia, guarda che vende. Ma no, no. Sta remurando un c'è. Uno e due, dai. E allora? Eccoci qua. Uia, cosa che cazzo, che busto non sta. E va, se vanno per l'antica. Ci è andato in kiwi. Mamma mia, guarda. Boh, non te lo potevo accusare prima, punti la blacca. Cazzo pare che prima pensava che era solo visto. C'era la pista che c'era il canale stretto, poteva essere placca del sapente, invece no. Lui vedrai che non c'è più dolori, sì. Vado poi sotto la camicia, ma è stata quando c'è stato il tutto. Dai, quando mi avete rimesso dall'ospedale, ve l'ho anche detto, dove fatto si mette il giovedì, ho detto no, non ce la faccio io a camminare. E mi avete tutto un altro giovedì, e poi mi avete messo in struttura, e allora. Mamma mia, che gente, In capo ve la dobbiamo pure la blacca, Edo. Cioè, ma che non mai non si avvisa che ve l'ha bisogno di chisso. Sono già via. Comunque oggi mi hanno già chiamato, mi hanno dato conferma. Io il giorno 17 devo essere via all'ospedale che le fanno le visite. Poi me ne vado via e poi vado il giorno 19 che mi ricovero e il 20 mi opero. Cappa, che c'è che ci è venuto da Sartoria? E cosa come sta? Tuo figlioccio. Sta bene, sì? Sì, a lui gli sta bene. Però guarda, c'è troppo di canna che sta canna di guarda. Non mi piace la televisione, no? No, io sono Poi cammino pensa con la 40 forci, 50 ce l'hai in Cina. No, no, io qua purtroppo colpa, solo giù. No, non mi voglio di televisione non che sopra. Ma io ne ho un'altra ancora, 17 forci sembra colori. Della lente, sempre qua sopra la stessa del palatino, quindi che mezzo ne ho due io, potrò sentire una e l'altra. Capo, no, no, io qua, niente, avevo deciso così, no, che a drumia e bussi, no, diventa un macello, scendo a guardare la televisione, devo scendere giù, e ce l'ho giù, l'ho messa lì e basta, tanto noi, normalmente TV non è che soprattutto io no, non è guardo, se non è quando la Formula 1, che cosa così, ma se no io non guardo TV, tanto vai in TV c'è la spazzatura. Cioè, vai in TV c'è la spazzatura. Cosa? Hai detto, però in PD c'è la spazzatura, ma lo PD. Ma non vedi che c'è la spazzatura da giudizio. Non mi interessa, tanto. Qualche cosa già la guardo ogni tanto, però io di solito TV più che niente qua. No, io la guardo con i figli oppure qualche scopri, qualcosa la guardo, dai. Io non dormo se non sta televisione. Qua c'è stata la camera della televisione. Allora sapere che la Maurizio aveva la televisione in camera, fate i conti. In albergo che va in albergo c'è la televisione in camera, io sono la televisione, non dormo. Chiappa. No, io no, non la guardo, sono abituato così, perché anche già da quando vivevo giù a Torolce, no, qualche cosa la notte guardavo, ma non mi interessava la TV, mi moriva a fare cose, capito? Andò bene, va bene, adesso, io sono stato così tanto con il sincero. Può fare un minimo con te, va bene. Adesso ti guardo un po' di tempo, inizia a salutarmi se non devo guardare. Ok, dai, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, non stare a tua metà. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao.